L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo sabato di Pasqua che magari state trascorrendo al volante, e allora vi facciamo pensare agli pneumatici che vi portano in giro. Perché? Perché nonostante l'industria italiana del riciclo degli pneumatici fuori uso costituisca un'eccellenza a livello europeo e un settore in cui la tanto nominata circular economy, economia circolare, funziona, ebbene ci sono diversi rischi che questa possa proseguire con lo stesso passo positivo. Se ne è parlato, ci si è confrontati sull'argomento recentemente a Roma in un convegno promosso da Unirigom, che è l'Unione Recuperatori Italiani della Gomma, che aderisce a Fise Unire, che quindi è l'Unione delle Imprese del Recupero. Presiede l'una e l'altra associazione Andrea Fluttero, quindi ha uno sguardo, diciamo, a tutto campo. Presidente, a questo punto io non posso che chiedere di spiegare agli ascoltatori perché dite che il riciclo degli pneumatici fuori uso è un pilastro di questa economia circolare italiana. Sono un pilastro perché in questi ultimi anni, da quando è entrato in vigore il DM82, il decreto ministeriale 82, hanno avuto uno sviluppo significativo in termini di risultati, di quantità di materiale raccolto, ma questo per una caratteristica intrinseca, no? Mentre un normale imballaggio, ad esempio, viene venduto e disperso in milioni di siti, perché ognuno si porta a casa lo yogurt piuttosto che la scatola di biscotti o altre confezioni, nel caso del pneumatico abbiamo una riconsegna del pneumatico usato in un certo numero limitato di gommisti, cioè io li vado a recuperare dai gommisti, non devo andare a recuperare chissà dove. Quindi è, diciamo, abbastanza, tra virgolette, facile raggiungere l'obiettivo di una buona raccolta, perché so dove andarli a raccogliere, il gommista li raccoglie, li stocca. Una volta doveva spendere per smaltirli, adesso invece non paga più per smaltirli, in quanto il costo dello smaltimento viene sostenuto dal contributo ambientale che per legge noi cittadini / consumatori, quando cambiamo i pneumatici, paghiamo insieme al pneumatico. Dunque, perché l'Italia ha un'eccellenza in questo campo? In che cosa consiste? Ma l'eccellenza consiste nei buoni risultati garantiti dall'applicazione del decreto ministeriale 82, dal fatto che si è scelto un sistema che è finanziato, ahimè, ma per fortuna, dal consumatore. Quindi dobbiamo essere consapevoli noi come consumatori, prima di tutto, che siamo noi con i nostri soldi, quando cambiamo i pneumatici, a versare anche una piccola quota che serve per garantire la raccolta presso tutti i centri gommisti che sono sparsi in Italia. Quindi il risultato di raccolta è ottimo. A questo punto è garantito, diciamo, dalla logistica messa in piedi dai consorzi dei produttori. I consorzi dei produttori sono quei soggetti che concretizzano la responsabilità estesa dei produttori. Quindi produttori, i vari marchi di pneumatici o importatori, nel momento in cui hanno venduto un certo quantitativo di pneumatici quest'anno, devono, utilizzando i soldi nostri, di noi contribuenti e di noi clienti che abbiamo cambiato i pneumatici, devono garantire una logistica di raccolta a costo zero per il gommista. Quindi a questo punto, voi capite, è abbastanza facile intuire che con un buon sistema ben organizzato si va a raccogliere tutto. Il tema a questo punto diventa il riciclo, però, temo. Che ci faccio con questi pneumatici che per fortuna non finiscono più chissà dove, ma sono correttamente raccolti. E qui è un po' il bivio che ci troviamo ad affrontare in questi tempi. L'Italia ha spinto molto sul recupero di materia, correttamente, perché così ci chiede la gerarchia europea della gestione di rifiuti, che ci dice: prima di preoccuparci di recuperare energia, vediamo di recuperare tutta la materia possibile. E in questo contesto oggi siamo arrivati a recuperare oltre il 40%, direi quasi il 45% dei 350.000 tonnellate di pneumatici fuori uso che ogni anno si generano, diventano materia. Dunque, che cosa ci si fa con tutto? Perché sì, no, ho letto, vabbè, c'è il granulato di gomma, l'acciaio, la fibra tessile, il restante poi destinato al recupero energetico. Parlavo appunto di un bivio, nel senso che oggi, dicevo, siamo al 45% di recupero di materia, 65% diventa quindi energia. Potremmo aumentare ulteriormente il recupero di materia, ma il rischio è anche di tornare indietro e di ridurre il recupero di materia, aumentando quello di energia. Questo sarebbe un grosso peccato, perché vorrebbe dire per i nostri imprenditori, per gli imprenditori che rappresentiamo noi come Unirigom, avere fatto degli investimenti che non vanno a buon fine, avere dei grossi danni economici, aziende che chiudono, ma sarebbe anche un pessimo segnale per tutta la filosofia dell'economia circolare, perché potrebbe voler dire, dare un segnale negativo di pericolosità dell'investimento in economia circolare, perché se dopo pochi anni vedi che hai investito nel recupero di materia e poi le norme non ti consentono più di vendere quello che produci come materia riciclata, sei costretto a fermare quegli impianti e a produrre semplicemente materiale per recupero energetico, anche altri settori sarebbero portati a dire: beh, ma io non investo in recupero materia perché magari per qualche anno va bene e poi mi si ferma. Questo perché? Lo dico perché, al di là delle tante belle applicazioni che sono state illustrate all'opinione pubblica in questi anni, gli asfalti, l'uso per i fondi di piste di atletica, parchi gioco. Esatto, cioè molte, al di là di tutte queste belle di queste belle cose sperimentali, poche sono diventate effettivamente di uso corrente e in grado di assorbire grandi quantità di materiale. Ed è ovvio che le devo chiedere perché. E in quei casi, esatto, e in quei casi, e qui sta il problema che affrontiamo, che il settore affronta in questi mesi, ossia il discorso del decreto End of Waste, cioè il decreto di fine rifiuto, il decreto che dovrà sancire quelli che sono i criteri da rispettare perché questi materiali derivati dalla triturazione dei pneumatici possono non essere più considerati rifiuti, ma possono essere considerati materia prima, seconda e quindi semplicemente facilmente avviati a un riuso. In questi mesi ci sono delle posizioni di forte prudenza, noi diciamo di eccessiva prudenza, nel riuso, nel definire i criteri che consentano il riuso come materia e non più come rifiuto da parte di soggetti istituzionali come Istituto Superiore di Sanità piuttosto che non ISPRA e quant'altri, che se dovessero prevalere il rischio che corre l'intero comparto, che è stato, come dicevamo prima, per alcuni anni portato come esempio virtuoso di recupero di materia, potrebbe non solo avere un brusco arresto ma anche una riduzione decisa del quantitativo di recupero di materia a vantaggio del recupero di energia. Ecco, questo è un po' il quadro nel quale si inserisce il dibattito di oggi organizzato da Unirigom, che ha visto la partecipazione di molti degli attori che si occupano di questo settore, a partire dal Ministero dell'Ambiente, dell'Enea, che sta seguendo tutto questo argomento come soggetto che si occupa dell'efficiente gestione dei materiali e delle materie prime, e di conseguenza noi speriamo che da questo dibattito esca una visione che porti il nostro paese e gli imprenditori che hanno investito in questo settore e l'intero comparto della green economy ad avere una prospettiva di ulteriore crescita nel recupero di materia rispetto al recupero di energia. Però io non riesco a capire da dove derivano queste posizioni di eccessiva prudenza che adesso voi riscontrate. Derivano da prudenza, dal principio di precauzione, per cui, se mi consente la battuta, estremizzando, vivere nuoce gravemente alla salute. Per prudenza uno non fa nulla e quindi mi permetto di osservare che se un pneumatico viene immesso sul mercato dalla casa produttrice, viene utilizzato, lo maneggiano i gommisti, si disperde circa il 10% del suo contenuto di battistrada nell'aria, sulla strada, nelle acque di dilavamento e nessuno dice nulla, non si vede per quale motivo nel momento in cui quella stessa gomma che compone il pneumatico viene tritata e ridotta a granulo, quel granulo che è fatto della stessa materia non ha subito lavorazioni chimiche, semplicemente lavorazioni meccaniche di riduzione volumetrica, debba diventare potenzialmente pericoloso, mentre tutto quello che c'è prima non lo è. Anche perché l'alternativa è poi è che destiniamo tutto, esatto. Ma ci sono delle indagini, non so, mediche, sanitarie, su questo, no, rischio potenziale che c'è? Ma per fortuna a livello europeo c'è un recentissimo studio dell'istituto che si occupa di queste questioni, che è stato pubblicato a febbraio, che riporta risultati molto rassicuranti. Speriamo che tutti i soggetti interessati abbiano un'attenzione a prendere in dovuta considerazione gli studi che portano in questa direzione. Allora, Presidente, grazie mille davvero del tempo che mi ha dedicato. Buona giornata, buon proseguimento. Buon pomeriggio. Facciamo una piccola pausa e subito dopo ritorniamo insieme e cambiamo argomento. Parleremo di etichettatura del latte e di prodotti lattiero-caseari. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, ritroviamo con piacere in questa seconda parte della trasmissione di oggi Sabina Rubini, che è un'esperta di sicurezza degli alimenti, una biologa dello studio ABR. Bentornata. Grazie, un saluto a tutti. Di cosa parliamo questa volta? Parliamo di latte, no? Perché ormai siamo vicini alla scadenza del 19 di aprile, quando l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e per i prodotti lattiero-caseari diverrà obbligatoria. Cosa significa questo tradotto in termini semplici? Dunque, vuol dire che fino adesso le aziende che volevano indicare l'origine di provenienza della materia prima del latte usato tal quale oppure usato come materia prima per andare a produrre prodotti lattiero-caseari, se volevano indicare l'origine lo facevano solo su base volontaria. Questo naturalmente poteva dare all'azienda alcuni vantaggi, perché naturalmente un consumatore che vedeva questa espressione sull'etichetta gli dava quasi un valore aggiunto e quindi era quasi un punto di forza da parte delle aziende. Infatti mi è capitato più volte di sentirlo dire, che, no, anche proprio come motivo di vanto da parte dell'azienda. Sì. Noi abbiamo inserito anche questo dettaglio. Esattamente, infatti, tant'è che adesso bisognerà un po' vedere, no, come le cose si andranno anche un po' a rimodulare a livello dei mercati, cioè non credo che ci saranno grossi cambiamenti, però diciamo che alcune aziende che beneficiavano di ciò adesso invece saranno uguali a tutte le altre, che saranno obbligatoriamente quindi obbligate a dover inserire la dicitura. Naturalmente questa dicitura è in via sperimentale e fino al 31 marzo del 2019, quindi per circa due anni, sempre che prima non intervenga la Comunità Europea a decidere che sarà obbligatoria per tutta la comunità, perché ricordiamo che questa dicitura sarà obbligatoria solo per l'Italia, cioè il decreto ministeriale che è nato appunto il 9 dicembre 2016 che lo disciplina, in realtà definisce che l'obbligo rimane per i prodotti italiani. Quindi in pratica quindi l'Italia si è autoimposta questa, sì, questa regola? Sì, sì, assolutamente. E perché sì, in via sperimentale alla fine l'ha fatto? In via sperimentale perché quando più volte ha chiesto l'Europa alla Comunità Europea, la Comunità Europea all'inizio ha detto di no. Facciamo anche un inciso, questa origine del latte in realtà era più che altro già presente per il latte fresco, perché lì c'è tutta una questione di rintracciabilità e scadenza del latte fresco che era disciplinata da un altro decreto ministeriale in cui l'origine del latte era, come dire, obbligatoria. Per tutto il resto di questi prodotti no, quindi più volte l'Italia aveva chiesto che l'obbligo venisse allargato al latte UHT, al latte scremato, al latte che era sottoposto a processi produttivi, ai prodotti lattiero-caseari, e la Comunità Europea più volte aveva detto no. Alla Ma fine, perché per noi era così importante? Perché insistevamo tanto? Ma secondo me proprio perché comunque siccome l'Italia è leader spesso e poi l'Italia nel Made in Italy crede tantissimo ed è giusto che sia così, perché noi in effetti diamo vita a dei prodotti di eccellenza. E quindi io credo che l'Italia lo vedesse proprio come un punto di forza per i produttori italiani. Tant'è che alla base di diciamo questa norma, una delle critiche che magari poi alla fine sono state sollevate è stata proprio la questione che per quelle aziende italiane che però utilizzeranno latte proveniente da paesi, quindi andranno a importare, potrebbe esserci da parte del consumatore una, come dire, una visione di criticità. Discrimine, ecco, certo. Sì, e quindi loro magari la vedono come una discriminazione. E certo è che però in passato, prima di arrivare a questa norma, si erano fatte dei riscontri con i consumatori, erano state fatte anche parecchie interviste e quindi si era visto che soprattutto in una relazione poi rilasciata dalla Commissione europea effettuata nel 2015, l'84% dei consumatori dava grande importanza alla conoscenza dell'origine di prodotti come il latte. Quindi da questo poi ci si è resi conto che il consumatore, dando questo valore aggiunto, era giusto che fosse messo nelle condizioni di trasparenza migliori e quindi potesse scegliere con più tranquillità. E quindi oltre diciamo all'importanza dell'origine, lui dava naturalmente anche importanza al gusto, naturalmente alla data di scadenza e anche al prezzo, che poi rimane sempre uno dei punti sì, fondamentali, tant'è che poi in questo sondaggio pare che i consumatori intervistati avessero messo comunque al primo posto il prezzo e poi l'importanza della conoscenza dell'origine. Per cui se questa conoscenza dell'origine doveva portare ad un aumento del prezzo da parte delle aziende, quasi quasi i consumatori un pochino, un passo indietro, erano pronti a farlo, insomma. Sì, erano pronti a farlo, sì, esattamente. Ho capito, ma al di là del... Adesso forse non è una domanda da rivolgere a te, più perché hai un settore specifico che è quello della sicurezza degli alimenti, ma se le aziende produttrici italiane decidessero di utilizzare latte italiano esclusivamente, anche per dare soddisfazione a queste richieste dei consumatori, noi ne produrremmo a sufficienza? O comunque dovremmo prenderlo dall'estero? Sai per caso? Ma guarda, allora io ti dico, noi comunque ne abbiamo sempre prodotto molto. Tu hai detto bene, io non sono una specialista nel campo, però diciamo il mio settore un po' si incastra e infatti questo è stato il problema delle quote latte, che poi alla fine i nostri allevatori hanno sempre lamentato il fatto di produrre in elevata quantità. E poi, siccome comunque la Comunità Europea all'interno di un mercato unico doveva ridistribuirle, il nostro latte purtroppo veniva poi non venduto per le sue caratteristiche originarie e quindi poi doveva essere utilizzato per altro. Quindi da qui nasceva la questione delle quote latte. Quindi io, ripeto, non essendo proprio nel settore, però immagino di sì. Immagino perché in tanti anni poi gli allevatori hanno lamentato il fatto che le quantità prodotte erano molte e poi loro, insomma, venivano a perdere questa materia prima così ricca e preziosa. Però qui potrebbe presentarsi, ma questo è tutto un altro scenario, qualche difficoltà proprio con la Commissione europea e questa specifica normativa che in pratica invoglia a utilizzare solo latte nazionale, no? Perché poi allora, diciamo che a un certo punto c'è stata la liberalizzazione dalle quote latte, questo ha fatto anche crollare il mercato, quindi lì poi c'è stato purtroppo uno scenario anche economico in questo senso. E, certo è che comunque nel momento in cui noi possiamo indicare l'origine del prodotto, nessuno ci vieta che poi i nostri allevatori, lì è poi una linea anche aziendale, cioè se l'allevatore lo può fare oppure se non lo può fare, quindi deve importare la materia prima per poi produrre i suoi prodotti. Certo. Allora, tornando alla normativa, più sì, specificamente, vedo che ci sono anche alcune eccezioni. Alcune sono di immediata comprensione, i prodotti DOP, IGP, i prodotti biologici hanno già tutta una regolamentazione specifica. Per cui, E quindi in questo caso era inutile perché già a monte ce l'hanno, per cui in effetti quelli che rimanevano esclusi inizialmente, che adesso invece saranno, come dire, potenziati in questo senso, sono tutti prima di tutto i latti di tutte le specie, quindi capra, pecora, bufala e così via, anche i delattosati o i light, quindi prodotti anche specifici, e poi naturalmente tutti i prodotti lattiero-caserari, tra cui anche la ricotta, lo yogurt, i formaggi, il burro ad esempio. Quelli che invece rimangono esenti sono in questo caso i formaggi, per esempio, tagliati e confezionati all'interno del supermercato, perché lì non verrà mantenuta l'origine, l'origine è a monte, quindi bisognerebbe vedere la confezione originaria. Questo è stato un po' il fatto, se volessimo fare un parallelismo, con la dichiarazione nutrizionale, perché anche in questo caso la dichiarazione nutrizionale è obbligatoria. Però se poi un alimento viene frazionato e quindi poi in questo caso confezionato all'interno del supermercato non manteneva la dichiarazione nutrizionale. Ecco, in questo caso accade la stessa cosa. Quindi se io la voglio conoscere l'origine devo chiedere al supermercato. Sì, esattamente, perché loro poi sicuramente mantengono la tracciabilità. Mantengono nota, diciamo, dell'origine del prodotto che poi è stato appunto creato in piccolo taglio. Qui partiamo da tre punti fondamentali. Allora, se il paese ha effettuato la lungitura, se ha effettuato il cosiddetto condizionamento, cosa vuol dire l'ultimo trattamento termico, e poi se il paese ha effettuato la trasformazione. Cioè, ci saranno scritte tutte e tre queste cose? Allora sì, queste fasi devono essere messe in evidenza e quindi devono essere messe in evidenza anche in maniera diversa a seconda che tutto avvenga nello stesso paese. Quindi in quel caso si può scrivere origine del latte, per esempio Italia. Oppure se i paesi sono diversi, allora si scrive latte di paesi europei, per esempio per la mungitura, e poi latte confezionato o trasformato in paesi europei e si mette il nome dei paesi europei. Oppure l'ultimo caso, quando tutto avviene in diversi paesi che sono extra europei, però si fa sempre la specifica sia per la mungitura che per il condizionamento e la trasformazione. Quindi queste tre basi, diciamo, rimangono in maniera tale che il consumatore possa avere chiarezza di ciò. E che il consumatore studi per benino anche, perché comunque no, bisogna abituarsi a prendere le misure. È vero, è sempre così con una nuova etichetta. E naturalmente da parte nostra sì, ci deve essere pure l'attenzione. Io penso che il latte, visto che molte volte poi o spesso viene acquistato per i bambini, i genitori risultano essere più attenti, no? Nell'etichetta, nella lettura dell'etichetta. Infatti penso che dove ci sarà, ipotizzo, una scritta Italia, il consumatore sicuramente si sentirà molto più rassicurato. Ma infatti quando si è giunti poi a decidere alla fine che questa indicazione poteva essere obbligatoria, perché all'inizio insomma sono stati fatti questi studi proprio per capire le varie problematiche, in realtà quello che il Parlamento europeo alla fine stabilì fu che l'obiettivo di un'etichettatura di questo tipo, quindi di un'origine obbligatoria, non faceva altro che ripristinare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari. Quindi di questo poi si tratta, perché io magari effettuo una scelta molto più consapevole e quindi eventualmente decido di acquistare o solo prodotti italiani e quindi made in Italy, oppure magari sono una persona che comunque non dispiace se ci sono delle materie prime che provengono anche da altri paesi. Certo, dunque, allora io invito tutti coloro che lo desiderano ad andare a leggere per intero l'articolo di Sabina Rubini. Si può leggere facilmente su internet all'indirizzo www.alimentisicurezza.it. Sabina, io ti ringrazio, il tempo che avevamo a disposizione l'abbiamo concluso, ma sicuramente non mancheranno, no, le occasioni di risentirci, perché per fortuna sì. Insomma, gli argomenti da sviluppare sono tanti, no? Oggi per esempio si sentiva, lo diciamo come battuta finale, si parla adesso dell'origine del riso. Oggi proprio il ministro Martina, certo, ha dato questa notizia e quindi vedremo adesso gli sviluppi in questo senso. Che tra l'altro l'Italia, ricordo agli ascoltatori, l'abbiamo detto tante volte qui a Radio 24, è la prima produttrice di riso europea, quindi è un argomento che ci interessa molto da vicino, insomma. Sì, infatti proprio per questo diciamo che anche lui in questo caso ha voluto, no, tutelare l'eccellenza italiana. Quindi ci auguriamo sempre di continuare così al meglio. Grazie, grazie Sabina, auguri. Grazie e buona Pasqua a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, un saluto a tutti.